Allora, potete occupare le signore, lei in fondo può mettersi qui vicino, per favore? Perché non mi piace quello che sta facendo. Detto più volte, ma c'è una sorta di ostinazione capricciosa. Anche il signore là in fondo può spostarsi più avanti? Ci sono dei posti lì. Venite avanti. Questa ricerca del tempo perduto, questa ricerca del significato della propria vita, poi di questo stiamo parlando, può essere ostacolata da quelli che abbiamo chiamato idoli. Gli idoli sono delle rappresentazioni della divinità considerate esse stesse divinità. Il caso che vi facevo dalle scritture del vitello d'oro che gli ebrei si erano costruiti attendendo Mosè e adoravano il vitello d'oro. Perché uno si costruisce un idolo? Uno si costruisce un idolo perché ha bisogno di un Dio. Questo discorso è di portata filosofica molto grossa. Ha bisogno di un Dio per avere sicurezza, ha bisogno di un Dio anche perché è bello essere in questa posizione adorante, perché l'adorare qualcuno ci dà un senso di consistenza. Allarghiamo il discorso, l'amare qualcuno ci dà un senso di consistenza. Noi vediamo che nel mondo attuale ci sono continuamente degli oggetti che vengono di volta in volta idolatrati, persone che vengono idolatrate. Questa idolatria passa dal campo sentimentale della vita privata di ciascuno, in cui tendiamo, nei casi migliori naturalmente, a idoleggiare la persona che amiamo, ad altre cose, infinite cose che riguardano per esempio, non so, il mondo dello sport. Che cosa è altro il tifo da parte dei grandi tifosi se non un luogo di idolatria della squadra, che viene normalmente accettata anche quando sbaglia, oppure viene odiata quando sbaglia, ma con la stessa passione che riserveremmo a un essere umano. Un idolo è essenziale per vivere? È una domanda che ci possiamo porre, ma certamente nel caso di Proust, Proust diceva che gli idoli sono pericolosi. E chi aveva teorizzato questo fatto che noi viviamo per gli idoli, potrete vederlo per conto vostro anche su internet se credete, è stato un filosofo che era Francis Bacon, che parlava di diversi tipi di idoli che noi abbiamo. Io vi rimando direttamente a lui, lo potete vedere attraverso enciclopedie, libri di filosofia o internet. Nel caso di Proust, gli idoli sono di due specie. Ci sono gli idoli mondani e ci sono gli idoli amorosi. Sugli idoli mondani ci siamo già soffermati. Gli idoli mondani sono connessi allo snobismo. Ci sono snobismi di due generi. Lo snobismo di chi, essendo in una condizione sociale inferiore, si atteggia nei suoi comportamenti come se fosse in una condizione sociale superiore, e lo snobismo di chi, essendo in una condizione sociale superiore, dissimula il fatto di esserlo con degli atteggiamenti, mettiamo, bonari, per far vedere che in realtà non appartiene, come vergognandosi di essere in quella condizione. La vita dello spettacolo, della televisione, la vita presente ci mostra continuamente atteggiamenti di questo genere. Prendiamo un personaggio della vita pubblica o comunque televisiva che voi conoscete, il presidente della Ferrari Montezemolo, con le sue ariette di messe affettuose, è un ricastro molto fortunato che dissimula i soldi, no? Poi ci sono un numero pazzesco di persone che, essendo persone con le pezze sul sedere, però vogliono far vedere che sono invece in una condizione superiore. Qual è il torto dello snobismo agli occhi di Proust? Perché potrebbe sembrare che si tratti semplicemente di una piega caratteriale più o meno odiosa. Lei non prende appunti? In realtà non si tratta solo di una piega caratteriale che comporta certi difetti, che rappresenta certi difetti. Lo snobismo è mistificazione, perché uno vive non mostrando se stesso. Nel caso dello snobismo, in cui uno cerchi di far vedere che appartiene a una classe sociale superiore, mistifica. Ma mistifichi anche se, essendo una classe sociale superiore, non vuoi farlo vedere e vuoi far credere che sei invece una persona come tutti. Mistificare è il punto sostanziale. Noi non possiamo avere alcuna speranza di ritrovare alcunché di vero nella vita se ci raccontiamo delle bugie. Questo vale per tutti, ma segnatamente per l'artista. C'è una frase di Proust che riguarda lo scrittore, che dice queste parole che vi prego di segnare, che conoscete già, vi ho già detto, ma comunque: les vrais livres sont les enfants de la solitude et du silence. I veri libri sono figli della solitudine e del silenzio. La solitudine è una cosa molto importante. Tutti voi sapete che c'è stata una cultura della solitudine nel cammino occidentale, e non diciamo quello orientale, e la cultura della solitudine nasce dal fatto che se si sta con se stessi ci sono più possibilità di non mentire. Ma questo è ovvio, è intuitivo. Se si sta con gli altri siamo più facilitati a recitare, a non far vedere quelli che siamo. Mi viene in mente che il titolo famoso di Pirandello, Uno Nessuno e 100.000, nasce poi dal fatto che l'uomo è in società, perché se l'uomo fosse solo sarebbe comunque difficile una mistificazione. Gli idoli mondani sono da rifiutare. Lo scrittore che si getti nella mondanità perde, scrive cose mediocri. Proust naturalmente diceva questo a se stesso, perché la sua grande tendenza e tentazione era proprio quella di andare nella modalità, quindi di non essere più in condizioni di scrivere il grande libro di verità che invece voleva scrivere. Gli idoli non sono soltanto rappresentati dalla modalità, c'è anche un altro tipo di idoli. Sono gli idoli amorosi. Quando noi ci innamoriamo di qualcuno, mistifichiamo allo stesso modo con cui mistifichiamo quando ci abbandoniamo allo snobismo. senso che la persona che noi amiamo non la vediamo come è realmente. Il piacere di sentirsi innamorati è così forte che siamo disposti a raccontarci che è successo stamattina. Che siamo disposti a raccontarci le peggiori menzogne su questa persona. Tutti gli innamorati del mondo lo sanno. Quindi incontriamo, quando siamo innamorati di B, incontriamo delle persone che vedono B come è realmente e ci dicono: guarda che questa persona ha questi difetti. Noi non soltanto non siamo d'accordo, ma ci sdegniamo con colui che ha messo in evidenza questi difetti. Abbiamo un atteggiamento nei confronti dell'oggetto d'amore molto simile a quello che ha un credente nei confronti del proprio Dio. Se a un credente tu offendi o oltraggi il suo Dio, tu vedi quel che succede. Siccome il Dio è diventato il suo luogo, il suo punto d'appoggio, se tu glielo insulti, lo oltraggi, come è successo per esempio nei confronti per il popolo islamico di Maometto, lo sapete, le parodie, scherzi che sono stati fatti su di lui, avete visto le fatwe che sono state combinate, le condanne a morte, c'è tutta una storia negli ultimi decenni in questo senso. Ma se un credente, un cristiano, sente una bestemmia, perlomeno l'educazione cattolica impone questo, sente una bestemmia, si risente. Un credente non vuole che si parli male del suo Dio. Un innamorato non vuole che si parli male dell'oggetto del suo amore. In ogni caso, ma l'oggetto del suo amore, l'innamorato lo vede? Non lo vede. E perché non lo vede? Non lo vede perché non vuol vederlo. Perché se volesse vederlo, questa costruzione dell'innamoramento forse potrebbe cadere. Stendhal diceva una cosa molto famosa. Diceva che quando uno si innamora avviene un processo di cristallizzazione intorno alla persona. E faceva questo esempio di un ramoscello che venga buttato in una miniera di sale a Salisburgo. Il ramoscello è un ramoscello, è un ramoscello qualunque, ma quando tu lo togli non è più lo stesso, è bianco, è coperto dai cristalli di sale. Quando uno si innamora, pian piano la persona che tu ami, diventa come il ramoscello gettato nella miniera di sale di Salisburgo. Non la vedi più. I difetti riesci ad accettarli o addirittura solleticano, incitano, stimolano la tua tenerezza. Quando è che torni a vedere la persona com'è davvero? Solo quando è iniziato il processo di disamoramento. Una delle tragedie della vita, e di cui naturalmente il matrimonio è lo scenario più consueto, è proprio questo. Tu vedi due persone che in buona fede si stringevano l'uno all'altro il giorno delle nozze, lei vestita di bianco, impennacchiati variamente nei loro abiti provvisori della festa coniugale, che si amavano. E poi infinite volte, vedi delle persone che non si amano più. Vedi delle persone che stanno a pranzo insieme, uno leggendo il giornale, ma direi un'esperienza comune, non parlandosi, dandosi, come dire, solo delle comunicazioni assolutamente di servizio. Che cosa è accaduto? Questa è l'esperienza più tragica della vita, l'esperienza della caduta della bocca. La decristallizzazione. Noi, in realtà, quando siamo innamorati, dice Proust, di una donna, non vediamo la donna. Vediamo una bambola che abbiamo costruito dentro di noi. Lui parla esattamente di une poupée intérieure, una bambolina che abbiamo dentro di noi. E non siamo capaci di distaccarci da questa bambola costruita dentro di noi. Naturalmente lo stesso discorso vale per quanto riguarda la donna nei confronti dell'uomo. Quindi noi siamo innamorati di un fantasma. Ma chi segue un fantasma, chi non vive più nella realtà, pian piano comincia a soffrire di che? Di alienazione. Ti sei venduto, anima e corpo, a questo fantasma. L'amore è pericoloso perché è un'alienazione, perché ci porta a stare con un fantasma e non a stare con una persona reale. La comunicazione con questo oggetto, quindi, irreale, diventa una comunicazione molto difficile. Crediamo di conoscere la persona, ma la persona non la conosciamo. La persona non la conosciamo. Si potrebbe ritenere che in cui questa visione dell'amore proustiano sia una visione per cui l'amore è solo solipsismo. Noi crediamo di essere in compagnia di qualcuno, ma siamo solo in compagnia di noi stessi e del fantasma che ci siamo costruiti. Solipsismo. È una filosofia, è una caratteristica filosofica per cui non c'è altro che l'io che sta pensando. Si potrebbe arrivare a dire che questo oggetto d'amore fantasmatico è semplicemente lo strumento del mio sentirmi innamorato. Cioè non conta nulla. Conta nella misura in cui conta uno strumento. È importante quanto una penna stilografica, un telefonino, non conta niente. Ma io non voglio rinunciare all'idea di essere innamorato. Se cerco di possedere questo fantasma, mi capita esattamente quel che può capitare se cerco di possedere un'ombra. Mettiamo che io veda un'ombra dietro di me mentre sto camminando. L'ombra è prodotta da me stesso. Potrei afferrare quest'ombra? Evidentemente è impossibile. Va bene. Vediamo che una persona cammini e produca un'ombra. E io cerco di afferrare quest'ombra. È possibile afferrarla? Non è possibile. Quello che dice Proust è che per quanti tentativi noi facciamo di afferrare l'oggetto del mondo, questo si comporterà sempre come un'ombra, scappa, non possiamo possederlo. E c'è una frase fondamentale in cui dice, a proposito dell'oggetto d'amore, on ne possède jamais rien. Non si possiede mai nulla. In realtà noi Basti pensare a questi fatti. Noi abbiamo delle idee estremamente rozze sul possesso. Crediamo, per esempio, che quando si dice ho posseduto una donna, non si riflette abbastanza su quel che è avvenuto, no? Vuol dire che si è avuto un coito con questa donna. Sì, ma che significa? Una delle cose più possibili e probabili è che la donna pensasse ad altre persone mentre era con te. Quindi che possesso è? Ma non solo. Possedere una persona. Che cos'è una persona? Una persona è sostanzialmente un impasto del suo passato. Quando due si innamorano, stanno al telefono o in conversari comunque per molto molto tempo. Questa è la prima cosa che capita, per raccontarsi tutto quel che è possibile raccontarsi della loro vita. Per i due innamorati è cominciato il periodo dell'idolatria. Cominciano ad amare non soltanto la persona che amano, ma anche tutte le cose che stanno intorno alla persona, i parenti, i genitori, gli amici, gli oggetti che tocca. Questo passato di cui la persona è fatta ci viene raccontato da noi, a noi innamorati, ci viene raccontato in un racconto scheletrico necessariamente. 20, 30 anni che abbia la persona che noi amiamo, molto peggio ancora quando ne ha assai di più, no? Ci viene raccontato secondo una logica che è sempre selettiva e falsificante, anche senza che la persona lo voglia, perché la memoria falsifica. Quindi di una persona che si chiami Paolo, noi conosciamo, retrospettivamente, solo quel che Paolo ha voluto raccontarci, punto uno. Inoltre, quel che ha voluto raccontarci può essere falsificato, moltissime altre cose di Paolo non le conosciamo, e a questo punto siamo abbastanza spaventati, atterriti. Chi è la persona che noi diciamo di possedere? Altro che ombra, è un'ombra che ci ha detto certe cose che non si sa se siano vere. Questo per quanto riguarda il passato e per quanto riguarda il presente. Tu possiedi una persona. Sei sicuro che la persona non pensi ad altro? Mentre fa l'amore con te? Non sei sicuro, ma non solo. Sei sicuro che nel periodo in cui state insieme questa persona non abbia i pensieri rivolti ad altri, ma a te, innamorato, capita di avere i pensieri rivolti ad altro? Questo è uno dei dubbi, è uno dei pensieri più tormentosi per l'innamorato. Può capitare anche alla controparte. Allora, le richieste di rassicurazione, ma tu mi ami completamente, per esempio, che si fa normalmente, sono delle armi a doppio taglio spaventose, perché immediatamente dopo che hai detto ma tu mi ami totalmente, non c'è nessuno a cui tu pensi vivendo noi insieme, la persona è forzata a dirti di sì, a rassicurarti, ma un attimo dopo ti può venire il dubbio. Mi ha parlato in questo modo per stare tranquilla, perché io non la tormenti più o perché questa è la verità? Un rapporto, dice Proust, avviene quindi sempre in questo mondo di ombre, ombre che sono le persone che amiamo, ombre che si frappongono tra di noi. E poi i due innamorati vivono, quindi incontrano altri esseri umani. Chi ci garantisce che questi altri esseri umani non promettano all'oggetto d'amore, che prima non si conoscevano, maggiore felicità di quella che proprio noi possiamo garantire a loro, ma non solo. Tutte le cose o persone affascinanti, dopo un po' che sono conosciute, è banale dirlo, ma è assolutamente vero, perdono il loro fascino. Il fascino è legato al mistero. Più una persona sta con un'altra persona e quindi abitua alle proprie umili frequentazioni del proprio corpo, del proprio spirito all'altra persona, più l'altra persona ha la ragione di dirsi, dirsi forse di disamore. È questa impossibilità dell'amore di cui Proust parla, che però non toglie il desiderio di amare e una gelosia disperata sia per il passato della persona sia per quello che la persona può fare mentre stiamo insieme. Ma più una persona è oggetto di domande gelose, di investigazioni, di analisi, più si sente aggredita, è chiaro? Più cerca di nascondersi. Ma più noi vediamo che si nasconde, più ci chiediamo perché si nasconde, se ha per così dire la coscienza pulita, perché deve nascondersi? Si comincia a sospettare della persona che amiamo. Questa fenomenologia amorosa viene considerata con uno sguardo da entomologo. Gli entomologi sono quelli che analizzano gli insetti, cioè senza alcuna commozione, direi con un'implacabilità che è rivolta sia a se stessi sia all'oggetto d'amore. Qual è l'atteggiamento che il narratore della recherche ha nei confronti della donna che ama? Non è di trasporto. E possiamo anche capire perché non è di trasporto. Non è di trasporto perché non si può essere trasportati verso chi ci suscita sospetto e paura. Noi lo possiamo notare nella nostra esperienza quotidiana. Se una persona con cui abbiamo un rapporto erotico ci suscita sospetto e paura, la sessualità viene meno. La risposta sessuale viene meno. Nelle infinite fantasie sulle difficoltà sessuali che sono state costruite nella psichiatria, si pensava a una difficoltà del coito come se il pene venisse stritolato dalla vagina. D'altra parte, tu infili il pene, ma non sai che fine fa. Sai quando entra, ma non sai che cosa succede, se te lo stritola. I complessi di castrazione nascono in questo modo. Se tu sai che questa persona impaurisce e tu non ti puoi dare, non ti puoi dare a una persona che ti impaurisce. Questo concetto è bello, non ti puoi dare a una persona che ti impaurisce. È bello anche al di là del luogo amoroso, no? Pensate alla grande scena, la più lontana possibile dal luogo amoroso, ma per capire, che è la scena politica attuale. La proposta che ha fatto Bersani a Grillo, e che molti seguaci di Grillo hanno detto che era sensata, di cercare di mettersi d'accordo con il Movimento 5 Stelle. Grillo lo ha irriso, lo ha disprezzato, lo ha insultato. Tutto questo fa parte di una tragica messa in scena, si voleva vendicare gli insulti che gli aveva fatto Bersani, eccetera. Come potrà il partito politico che ha vinto formalmente, non ho alcun dubbio, le elezioni, fidarsi di uno che ti ha insultato e ti ha vilipeso e che in concreto non ti viene incontro su nulla? Come faccio a fidarmi di chi mi fa paura? È un discorso molto importante. Prendiamo un rapporto di tutt'altro genere che il discorso amoroso, il discorso universitario che riguarda professori e studenti. Nella mia lunghissima pratica di insegnamento, la più lunga se sono il decano di questa facoltà, la più lunga di tutti, io pensavo inizialmente di potermi fidare degli studenti. Ora, questo indipendentemente dal fatto che avessi tanta dimostrazione di stima da parte degli studenti, ma c'era proprio un problema, credo di potermi fidare di loro. A un certo momento ho capito un punto che rendeva questa fiducia in certa misura impossibile. Loro dipendono da me in una misura minima, perché io poi li giudico all'esame. Come fanno a fidarsi di uno che può far loro paura? Poi naturalmente, tenendo conto che l'università è quella che è, che gli esami, tenendo conto di tutto, le cose, grazie a Dio, sono più facili. Ma come fa uno a fidarsi di chi gli fa paura? Ed estendo il discorso a qualcosa che va al di là degli studenti, tocca i nostri rapporti familiari, rapporti essenziali, un figlio con i genitori. Come fa un figlio a fidarsi del padre se è legato a lui da necessità economiche? Mi intendete? Se lo mantiene, se a un certo momento arrivasse a un contrasto violentissimo con suo padre, potrebbe temere che il padre gli tagli i liberi. La tragica condizione attuale dei giovani testimonia ogni giorno tutto questo. Non si esce più di casa andando a vivere per conto proprio. Se lo si fa, lo si fa aiutati dall'uno o dall'altro, dall'uno o dall'altra delle due famiglie. Si hanno i rapporti di dipendenza. Questa è la parola cruciale. Se c'è dipendenza, non ci può essere slancio e libertà, né nell'amore, né tra rapporti tra professori e studenti, né con i figli. È chiaro? Né con i figli. quando noi stabiliamo dei buoni rapporti al di là del fatto che esistono delle dipendenze, e certamente abbiamo degli ottimi rapporti a volte con l'oggetto d'amore, con il professore che seguiamo, con il papà e la mamma. Sapete perché? È perché ci piace star bene. E quindi superiamo le difficoltà logiche e siamo disposti a concedere alla persona da cui dipendiamo molto più di quel che dovremmo. Mio padre, mia madre mi mantengono, concedo a loro più di quel che dovrei. Il professore mi piace, concedo a lui più di quel che dovrei, e quindi mi accentro sul fatto che lo stimo. Non penso al fatto che lui potrebbe bloccarmi la carriera. Tanto può fare la malafede, ma la malafede non può incrinare la realtà del fatto che noi vogliamo star bene. Ecco perché mentiamo sui rapporti affettivi, con i genitori, col professore. Questa situazione di profonda incertezza, di complicazione, è esattamente l'oggetto di studio della recherche. Concludo dicendo questo: qual è l'atteggiamento che nei confronti di Albertine, la donna che ama, ha il narratore? Sono due cose molto significative e importanti. Il primo è la curiosità, vuol sapere cos'è questo animale che ama. Vuol sapere semplicemente che cos'è. E quando noi siamo in un rapporto di coppia non facciamo una cosa molto diversa. Noi vogliamo sapere cos'è questo animaletto che amiamo, dai cui umori dipendiamo, dai cui messaggini oggi sul telefonino dipendiamo, dai cui scherzi, dai cui capricci, dalle cui bizze, dalle cui violenze. Quindi è un atteggiamento di curiosità. L'altro atteggiamento che ha il narratore nei confronti di Albertine è un atteggiamento molto strano, tenendo conto che il narratore è più grande di Albertine e ha una funzione come di maestro, di pigmalione nei confronti di questa ragazza. Ebbene, l'altro atteggiamento è un atteggiamento di ricerca di protezione. Cosa vuol dire cercare di farsi proteggere dalla persona che ti fa paura, dalla persona di cui sospetti? Se riesci a farti proteggere, è come se rovesciassi il gioco della paura. Mostri a te stesso che questa persona non ti fa paura. Se io mi rivolgo alla persona che amo, di cui sospetto, di cui nulla so, chiedendole di proteggermi, è come se l'obbligassi a mostrarsi buono nei miei confronti. La sindrome di Stoccolma, l'avrete sentita nominare molte volte sui giornali, è un rapporto misterioso che ha una vittima nei confronti del proprio carnefice. Vi sono delle persone che sono sequestrate, per esempio, e che si innamorano del sequestratore. Cosa c'è dietro la sindrome di Stoccolma? Si innamorano perché, chiedendo la protezione del sequestratore, è come se esorcizzassero, non volessero vedere la sua natura malvagia. Il narratore chiede la protezione, la cura di Albertine per non essere costretto a vedere che ha paura di lei, che sospetta di lei. Prendiamoci. La prigioniera.